su con Rio Lancis, piano piano, un passo alla volta. Devo ancora prendere i soldi di carburante, quindi allora mi rompi due io me. Cosa c'è, Salvatore? Barra agricola, tutta l'erba ti stai mangiando. Ecco, questo è un cavallo, e senza far niente, ce lo vuoi, dai, la scuola guida col cavallo, è abituato ad andare da solo me. Ascolta, ma quel cavallo cos'è, maschio o femmina? Cavallo gay, gay e gay, come lo vuoi, c'è gay? A me mi sembra che tu sei gui. Se non mi porti il formaggio te lo dico al cavallo, ti faccio frustare dal cavallo, con la cola però. Non posso il formaggio. Ciao, sei maschio il cavallo, prendi il microfono e cantami, no? Allora ce l'hai, vieni da me domani mattina che ce l'hai. Ciao, vieni da me. Valencia, Spagna, che va chiamando dal Merroglio, ok? Mimi da Spagna. Attento mio hermano delle Spagna, della Squissia, l'isola della Sardinia, adelante. Buenas tardes, por aquí la estación Attento mio hermano, ripeti il tuo nominero. Il nome della stazione Francisco. Bueno. Ti scuccio al 100%, è Santiago 9 de noveno, 9 de noveno e 5 di quinto. 2 di secondo qua è 59 più 20 e questo è un obidomes. Sì, a chi raggio complice? Mamma mia, chi è questo hermano? Chi è questo hermano Francisco? Attento mio hermano Francisco, se con me mi scusi in Spagna. Tante compagnero, avanti Claudio, per l'amico. Ciao Francisco, ben ascoltato qui la estación Radio Sparviero, dalla ida de Sardegna. Muchas gracias, controllo para ti è 59 più 20 K. Roger, ok, che tal tiempo por ahí? El tiempo delle mele, el tiempo delle mele. El potador de uva. De aquí por Valencia, España, mucho calor, mucho calor. Anche noi in Sardegna, muy calor. No. E tengo mia sorella, caldada. Vai. Atento, Francisco. Ascolti, viene Umberto, K. Francisco. Vamos a ver, ascolta qua, mia. Se vede che sei di fuggini. Cosa dividi, ma cosa dividi, ma vai che un bedone, cosa dividi, Avemos Salvatore barra agricola in calor. Con la cavalla tutta scaldata le gannas. Fatto, mi sta cercando a te, Don Francisco della Vega, che ti chiude una pittorra. Francisco della Vega. Ragazzi, 30 anni, dopo il piercing in coma. E vuol dire ce l'ha fatto fare le zingari. E vuol dire aveva tesane, lo bici che no. E non ha mai avuto nessun problema. Capito? Vuol dire ce l'ha fatto fare le zingari. Oh, mi ammazzo più lì. Dai, già. Cosa vuoi, già? Che si che sulla lingua. Guarda di nevaia. No, abbia mica, non c'è di fish, di fishing. Cazzo, volete su, mensile. Anche l'aria ce l'ha nella lingua, però, vabbè, una donna. Ma provate a farmi io lo bici che la ringa? No, no. Mi voglio mettere l'orecchino, il brillantino nell'orecchio. Ma non riesco a convincere la mia moglie. La richiesce con l'aria, me lo pongo e torno, e ci invece me ne lo buga. Aiuto, andiamo insieme e ce lo facciamo insieme lunedì. Andiamo? Ma che? Io me lo devo fare lo stesso. Ma piccolo piccolo me lo voglio mettere. Piccolo piccolo piccolo. Che si vede appena appena. Un brillantino, mi ha detto l'aria, tipo quegli affarini che mettono nel naso. Un brillantino bellino. Ah, io ci metto a accompagnarmelo e ci avvicini me ne lo voglio. Avanti Spagna, scucci Italia, nord Sardegna, davanti. Attenta Italia, scucci da Spagna. Oh yeah. Siete del povero. E chi non ha più compreso? A chi non ho più basso, Attento Salvatore, barra agricola, se ti accoppi con la cavalla. Vedi, per costruire un pirti, che vai, che vai. Io non mi picchio una bombola alla Lecce, tu. Attento, Bobore, ci ascolti la cavalla agricola qua, dalla Ida de Sardegna, cambio. Sì. Ah, tu sì, ha detto. Attento Salvatore, si ascolti la cavalla agricola qua, cambio. Sì, qua c'è lei, mio hermano, a chi la stazione cavalla agricola della Ida de Sardegna. Barrita agricola. A chi la stazione barrita agricola, cavalla de Sardegna. Me intiende, mio hermano? Segnal para ti, amigo. 59. Aquí ripeto la estación Cavalla Agricola de la Ida de Sardegna. En compañía de Balla de Fieno. E Balla Guitijudia en la derecha. Cambio. Vai Balla de Fieno, amigo Gianni. L'amplificatore, già va bene così, no, lasciamo più lì, già va bene, e a voglia, suonano con 20 watt. Attento amico, ascolti, barra de cavalla. Un mio amico qua in Sardegna si chiama Balla de Fieno, e l'altro amico Balla chi ti lancia una pittorras. C'è barra agricola che sta imballando pieno e lì imballando il pieno e sta trombato la cavalla. Sì, è sta trombato la cavalla perché ha bucato il trattore. Capisce molto bene l'italiano, amico, stiamo scherzando qua in Ida de Sardegna, qui la stazione Radio Sparviero, operatore Claudio, buona estardas. Sì, QSL, QSL, stiamo scherzando per passare la serata. Sì, muy bien, fra Francisco, muy bien, 59 più 20, 59 più 20 para ti il segnale. A chi è te sto arrivando? Francisco, te arrivo? Come te chiami? Giovanni. Chi è stato il tuo nome? C'è Giovanni? Giovanni Tremendo? Sì, Giovanni, è un amico qua in Sassari che si chiama Giovanni il Tremendo. Sta molto, molto sordo, è molto sordo, sta parecchio nell'orecchio, come piercing, Giovanni il Tremendo. Come mi habla Giovanni, come mi intiende capa? Me ne sono accorto Giovanni, me ne sono accorto che capisci pochito italiano, me ne sono accorto. Sta Gianni qua che abra muy bien lo spagnolo, vai balla de fieno Gianni. Lo sento basso, ma che do mio hermano se scucci la città di Sassari, l'operatore Gianni del Taronò della città di Sassari che super cordializza. Pierpaolo, vai. No, no, ho detto di portarle il tuo nome, come darle il tuo nome? Operador Gianni Delta Romeo. Gianni, sì, si parla Gianni Delta Romeo. Dimmi se va più di voi. Ho capito il segnalito, qua tu arrivi un po' bassino, Santiago del 3 e Radio dei 2. Avanti mio hermano per il segnalito. E adesso lo giù. Come lo intende a Gianni, John? Come lo intende? 59? Che l'altro davvero, sì, avanti il cuoco, a chi balla de fieno? Come ti intende, cuoco? Come ti habla, cuoco, a chi è stazione balla de fieno? Operatore Claudio. Vai, cuoco, vale. Sì, Marcos, ti intendo, muy bien, ti intendo. 59, segnal para ti. Aquí estazione Balla de Fieno, operatore Claudio, in compagnia de Balla Guiti Julia La Pitorra. Sì, in Ida de Sardegna, io hablo da Ida de Sardegna, città de Sassari. Sta un amico nuovo de Sassari, amico mio. L'amico Balla Concas, vai Paoledu. Vai amico, è armato. Come lo chiamo, mi chiamo Maghizio? Amico. Armando. Sì, Armando, sta sempre muy bien, sta un nominativo come un altro, non va problema. Sorvente, al braccio, tutto. Non è problema, mio hermano, non è problema. La propagación buena. Está buena la propagación. Pierpa, noi stiamo scherzando, a me puta cefa, mi butti il dedo, ma già mi capisce. Lo spagnolo è come l'italiano, come il sardo in italiano, la stessa cosa, già lo capisco. Se parli anche l'italiano ti capisco gli spagnoli, anche poc'anzi si mette, stavamo parlando in italiano, quindi già capiscono. Deve fare il sardo ti comprende. Da carissimo. Sì, se parlo in algherese, ma là anche sta tromba costeglia. Attento a Schereggia, balla de fieno, mio hermano. 10-10 a Barra Agricola, ragazzi. Sabato, come sta la cavalla? Yeah. parte. L'ho copiato, tranquillo che l'ho copiato bene. Già l'ho capito. Te la mando. Attento Aldo, mi ascolti? Poi non mi ascolti bene. Io ti ascolto bene anche. Questa parte è Natalino, K. Era bravo. Pensione Gesù, Giuseppe Maria, cognome Miccolis. Mica mia figlia, tutto che sì. Attento amico, se mi ascolti ancora, Prima di dire forti i miei posti, Più mai, arrivi il forziere di me. Vabbè, magari c'ha un corridoio favorevole, o Lucarelli. E capita che c'è un corridoio favorevole, e tutto lì. Tu hai un terrazzino favorevole. Attento amico, ascolti qua, Natalino Miccolis, regione Gesù Giuseppe Maria, numero 74, 07100 Sassari, mandami la cartolina, K. E allora, sono come? Se mi mostri che la canale 50, lascia di dare due belle notti, che cazzo è niente. C'è il numero Natalino, la prima. E qui non leggo Malusì, ma mi ha derrato. Se vuoi ne ora che ci dà un'unicata. Hai sbagliato cultura. Ci dà un'unicata, hai dato un buco. Ehi, hanno sbagliato un lungo rotolquato, via. Ma lì. Ah, quello che io ti ha rilassato. Ma saremmo già in forno, hai sbagliato la cultura. Ehi, lungo rotolquato, via. Cosa? Ha giurito, lì non è gomma, lì siamo rimasti rimattoloncini gialli. Siamo visto là, e anche l'altra là. L'altra non è male. Vabbè. Questa cazzo sono in macchina, io non la so sentire. Che cosa vuoi vedere tu? C'è niente a vedere, ma sta lì, e tu ormai sei anziano. Attenzione a tutti, non mi domani c'è la gara del Tiro di Roma. Ciao a Parì. Ciao a te. Mi tira che ci sia chiaro. Dove è per te? Da Polito. Ma è te, da Polito lo posso venire io, lo straccio il Prizoma. C'ho un filmato sul telefono, l'ho fatto vedere. Poi vai, il Prizoma ci sulla faccia domani. Cazzo, faccio la giù, faccio un trofeo, cazzo, mi ce li ho tardati, Ora, a me? Allora, non parli adesso, non parli, bello te. Qui c'è un Antonio, non a me. A te, Ludo, e Antonio già... Già, io sono abituato a buscarmi da solo. Sentire. È andato a farsi il bagno, non è voluto. Sì, caro, non li qua. Non scherzare. Ah, io finestra, non me lo ricordo. Comunque ho detto in angherese, guardare la finestra, e Camudina. Cazzo, io ho detto, buh. No, ma non vai nulla, buh, sarà. Ma cosa devi scoppare, ho detto, devi mondare. Camudina, c'è piove, ma vai, ecco di ti, stammai. Grazie. Maddalenino è molto difficile lo stesso. Una cosa un po' particolare. Vabbè. Vabbè lui, sta chiamando Gende. Mi ha detto, beh, chi è? Ho preso quello spagnolo di poco fa. Giovanni, ascolti, balla di fieno. Io. Stasera sta arrivando, un bel forte tu. Io. Si conferma, bella, chiara, pulita, la modulazione, forte, segnale. No, tu qua nuda, adopera verso la radio, non toccare niente. Basta. Io, questa radio, voglio far bene. C'è qualcuno che ti dice di andare sopra o sotto, cambi radio, se noi siamo qua ad opera questa cosa di Naputi. Se si può fare la modifica, magari si può fare. Che canale c'è per sopra? Che fare? Io in un Inuit 23 canali, dove c'è l'orologio, avevo fatto tutto gli orologi, lì avevo fatto mettere il WFO. C'aveva un bel canale sopra, un bel canale sotto. Poi dietro avevo messo, siccome c'aveva 3 watt, avevo fatto mettere un linearetto piccolino da 30 watt, sempre collegato al trasformatore dei 12 volts, perché era 220 col trasformatore a 12. Lo sai quanto usciva bene? E questo qua, a Puglia che siamo fatti, però che io non voglio fare dalla persona che si intenda, no? No, io l'avevo data a una persona che queste cose le mastica a posto. Quando ci vediamo ti dico chi è. L'aveva fatta bella, veramente bella, bella, bella, bella. E poi l'ho data a un collezionista, qua ce l'ha presa lui, e ce l'ha sempre in vetrina. Purtroppo può capitare. Cappa, vai Luca. parole inglesi più uno neutro, metto direttamente il neutro lì e quindi all'interno non arriva niente. Poi c'è il condensatore dove scarica tutta la tensione, con la massa a terra, ho fatto bene l'impianto. Solo che è stata una mia cosa un po' particolare, ho dato potenza con l'antenna fredda, praticamente stava piovendo, molto umida, e quindi una scarica elettrostatica mi ha fatto rientro sull'amplificatore che è protetto e automaticamente mi ha fatto saltare il finale della radio. Può succedere, non deve succedere, ma può succedere, quindi molta attenzione, soprattutto quando piove. Non bisogna dare molta potenza all'antenna, cercare di farla scaldare piano piano, in modo che abbia un'irradiazione lenta, non veloce come sono stato io. Fatta colpa mia, tu capito? Ci vediamo. Quando devi andare a pescare domani? Mi ha dimucato la canna a pesca, la nostra buttina è tutta burita, da piena di cose, era di... Ne sta crollando uno sgabuzzino. E se lo metto a posto, un casotto, devo procurare coperte di sacrificiamento e farlo. Se no, crocro. Vabbè Gianni. Sabbia e cemento, più sabbia che cemento. Ah, dai, non tocca se non attacca, ci vuole la calce. Perché dopo cioè non è mica attaccare, come si dice, verticale, sopra, più cudi la sopra. Se tu butti sale cemento, già provato, non attacca, ci vuole un prodotto prima, ci vuole l'aggrappante e poi ci vuole sabbia, cemento e calce. Ah? fuori fra, dai. E se dentro il villaggio ti fanno uscire, capo. Ma ancora stai girando un film, il villaggio White. Lo sai che non era quella scatola che c'era in dispensa, la scatola della web, c'era quella roba dentro, boh, non riesci a comprendere il viaggio, butto sul dischetto io. Alla fine fra, non lo so cosa bisogna fare, bisogna configurarla quella web, se no è un casino, come faccio a usarla? Infatti sono sicuro non ti prende per un drive, se no la mettiamo nuova ciccia, ci mette tutto nuovo, si abbia le luci. Peccato perché quella è buona, è nuova, non abbiamo il dischetto per far girare la web, non credo più. Non so, ho cercato da tutte le parti fra, eppure sono ordinatissimo, ho visto c'è tutte le scatole, adesso ho guardato anche in garage però non la trovo. L'ho messa da qualche parte, non so dove però. Ma io nella sacca te la porto, non c'è problema, te la porto in ufficio e ti vedo un po'. Ma poi se ci sono problemi se cambia e ci sono messo un altro. Va bene. Comunque c'è bene, no Lu? La radio la senti di Franco? Sì, sì, claro, sto spegnendo la sigaretta. Sì, la sento, io ho Puglia. Basso io la sento, non c'è problema. Kappa, kappa. Come si va in buoni mani? Se la sera, la forbice, venerdì, tagliano le rami lì. Là. Stavo lavorando, sono male le mani. Ma perché avete lavorato? Avete lavorato venerdì? Ah, è vero che non stava piovendo di mattina. Certo avevo lavorato. C'è un signore grande, ancora una sessantina d'anni, circa 55 anni. Sta lavorando con noi. E lui è bravo a portare gli alberi. Diciamo il suo mestiere e si può portare l'albero di fichi, ma se non è lì devo portare altri, un altro albero di fichi, poi ce ne sono altri, no due, e poi c'è le palme e lui ne ha da portare, prima c'era da pulire e resta tra l'erba che hanno tagliato. E poi una volta finito quello e venne qua, ce n'è. Gappa gappa, già ce n'è. Dobbiamo fare semi, allora giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre finiamo. Ottobre, vabbè, poi? Poi ci saranno altri due mesi. Bisogna scendere giù e fare la richiesta da parte di due mesi. Gabba gabba. Così ho il pomito. Vabbè, pazienza. Sì, Roberto, ho finito. Ah? Roberto, ho finito. Oh, mi sembra di sì, l'altro giorno me l'ha detto che avevo finito. Sto facendo un cazzo in confronto a noi. Ma voglio del caramello, non vieni. Non facciamo niente. Se tu vieni ti metti la mano in testa, la tua ce la pulire. Sarà. Quanto sarà? Comunque un bel grande. Da pure sembra piccolo, ma è un bel grande. Quando ce la fare non è roba piccola per nessuno. A volte io vedo le cose, mi dico, mi caccia, è questo qui, lavoro, c'è a fare oggi, ci organizziamo, insomma, io ho un po' quello che va, non fare la nuda. È quello stesso, sembrava poco, ma poi ci ho fatto vedere tutto il terreno e veniva un bel. Già ce n'è. Attento, Franco Delta. Dove stai? Non ti arrivando, Santiago 9 sei qua, vai tu. E sono qua, sono un attimo. Tu la lì? Io adesso sono qua, aspetta. Fra, manco con F2 ci può parlare. senza la videochiamata, solo con l'audio. Perché appare la finestra configurazione audio. Il computer dove? Ha mandato una videochiamata. Sono arrivate le mie. Sì. Se tu fai F2 per pigiare il pulsante del microfono, appare la finestra e ti dice configurazione audio, perché non c'è la configurazione della cam. Quindi non si può fare niente, non si può parlare neanche senza la videochiamata. Perché tu senti, però lei non ti sente perché non c'è la configurazione dell'audio. Perciò bisogna farlo! Chi c'è? Lugia col mostro? Ah? Con Tenerone? Bau, bau! È piccolino dov'è? Se fai più ascolto? Nel seggiolino ce l'hai? Perché tu non la ponete la gratta? Ma forse sì, però. Se no devi chiudere, togliere il coso, il pannello dietro e mettere la gratta. Io lo stesso, io lo farei così, infatti non lo posso trasportare il mio. Anche se mi libri cannato, metti fuori pure in strada, mi rimane allo stesso. Ma metti il carrello, non metti il carrello. Ma vai che piccolino, poverino, se lo prendi in braccio, sicuramente sta seduto lì vicino a Lucia. Già lo so, sì, lo so. Anche lui rimanga fermo tranquillo qui, anche col trasportino si trova bene. Adesso smetto ogni tanto parla al microfono, misura le stazionarie, grappa grappa. Magari è ciò che non ti obbliga un cane. Diciamo mamma e mamma. No, poi li teme. Ma sono ripreso, non li capisci, è piccolino come quello di Franco. Balla di pieno! agricola, balla di pieno. Sto lavorando, sai, Barò. E adesso un po' compatta, sto cominciando. Adesso mi sto... cominciando. Finito di ballare la faccia. Faccio, finito di ballare la faccia, adesso il cappannone. E poi ti mangi il cavallo. Cavallo, me lo mangio, non me lo compro. Tu vuoi avere uno spagnolo? Allora se mi copiavano e c'è questa ombra, come ti chiami? Balla di fieno. E il mio amico Gianni si chiama Balla che ti cura una pittorra e rivia. Figurati. Allora rileva, poi volevo che parlasse barra agricola e invece non c'era, stava imballando. Ah, ma metto dato. E chi? E c'è la Bernacchia. Ma non devo ammazzarci, ma facciamo la Bernacchia. Ma faccio la sorella Bernacchia. Dove ci è arrivato fra? È alla Caloccia la sua Bernacchia. Ha giunto. Perché non c'è la Caloccia? No. Che guarda io a Pierpaolo un sacco di volte, siccome l'ignorante lasciamo fare, non abbiamo questi problemi, non trattiamo con gli ignoranti. Salvatore, ma cosa hai acceso il faro per lavorare? Sì, no, non ci fai il lavoratore. Ma non te l'ha fatta questa, che siamo avanti d'ozzi. Per forza, sono vicino a casa sua. Cioè, la segnale me ne accorgo. Ma lui è molto intelligente, capito? È una persona molto colta, intelligente, è una persona che sa fare solo le pernacchie con la bocca. Poi del resto non sa fare altro. Ma noi non abbiamo questi problemi, non ci cadiamo più nei tranelli, fra. Sappiamo nome e cognome, anche, ma non ti ha fatto Del Paolo l'altro giorno l'ha tipicata, ti è guardato qui. Si chiede che niente, però mi lo dico in bocca. No. Va bene Salvatore, accendi un altro là di faro, mi raccomando. Ma non ti dico con cosa devi farla la Bernacchia, perché mi vergognerei solo a parlarti. Boh, tu sei ignorante. Cosa hai detto Salvatore? Ma pensavo avevi parlato perché c'è questo... Guardate che portantista, pernacchista. Ora c'è che va a problemi di sogamo. Non è Luca, non è Luca. È un vecchietto della Teloce. Ma non è che è fatta tua sorella, magari. Si fa, fagliele, quante ne vuoi. Bravo che sia fare pernacchie. Allora che vuoi fare? A stellina, quando è che faccio una stellina? Uscire con te lì, la prendo la sera, c'è nel motto, la prendo, la porto in giro. Ma che tranquillo, non la tocco, Pettellina, ho gavato. No, la pecora. Ah, la pecora, non si chiama Susanna, sabato. E me non vuoi comunicare, va? Che cosa? Camber con la R. Camber con la L, barra I. Rimbambito ti sei. Tu sei stanco, va a riposare. Nomi Camber. Che c'è che mi dirà? Lasciare. Poi la posso toccare, va? Se non ci fosse mi viene a inventare la barra agricola. Oh, io. Ma passi domani mattina da signor Luigi. Io adesso sono quello che devo mettere e non con il finito di niente. E adesso prendo questa una tricella, ho finito per la cattiva, ho finito con il No, ho capito niente, hai fatto una discesa, poi hai fatto una salita e poi devi tornare indietro per uscire con il signor Pierpaolo. Che ha detto il signor Pierpaolo? Pierpaolo, vuole parlare il barattino? Lo sono già usciti, ti stanno aspettando lì che hanno preparato il ring al Piazza dei Scendi. Secondo me non ti conviene andarci in messa, ma tu a Giovanna che ti cuoi anche sciuscia. Bastone, sì. Secondo me gli ha fatto male il fieno. Se l'è fumato il fieno. È tutta la sera sta fumando erba, ha detto. Ho detto erba, non canne. A canne è tua sorella Canesca. Sorella no io. Ma è vero, c'è il becco e tu. Grazie, sono quelle. Sono qua. Le ragazze sono di Barravicola quelle. Lui c'ha le amiche tutte riccioline. Riccioline con i capelli bianchi. E tu glielo dico, io ci sono pecore. Non ti preoccupare, non ti fare prendere in giro a nessuno, perché sei correttamente adeguato al tuo lavoro. La matta che te ne varia. E non sa la riga, no, lei ne sa le fisce. Ah, già lo sai, sì, ah, Salvatò. Ma ne sa poco il signor Claudio. Ci vedi domani da signor Luigi, che ti offro da bere. Ti ho portato il vino a cambiare la botte. Draga mi fa. Oh. Allora giù, si andai in vena. Ma vedi qui un po' di Camparozzi. Ah, Campari fa. Ui ui ui. Grande, un grande Salvatore. Qua si difende bene. Cioè, un bravo ragazzo. Poi sempre lavorando, il sabato, il domenica. Boh. Quando ci vediamo a Salvatore ti dico una cosa che non te la posso dire qua. Tu voglio capire quando è che sei libero tu. Ho fatto la roba al bar, da tutte le parti. Antonio Rosa, se vai a prendersi il langato, era 3 bicchieri comunque con 3,50 euro. Poco costa di nozze. Eh beh. No, questo? No, ci sono Antonio. Che parti di te? Cappa. Vabbè, quello è un circo. Purtroppo. Ma pensavo 2 euro, 2,50. Quant'è? 3,50. Il giucchetto. Cos'è oro, Infatti è ben grano. Oro. Ma era oro. E chi ci vuole? Vabbè. Ha giocato la grossa, mi sono andato, Chi ho andato? Lui, il tuo bar, è così. In qualsiasi bar comunque. Cioè, tu conta, tu metti i bicchieri piccolini in plastica, fra. E poi lo trovo una quanto pieno, Poco più della metà di quei bicchieri piccoli. Li fa tutti a 3,50, lui non li so, che sei pure a 100 euro. Ma tu considerai che quella bottiglia, lui a parte che vabbè l'ha pagata quanto l'ha pagata, però su quella bottiglia devi contare che lì c'è Luce, IVA, Casini, altri caspesi, la spesa in generale, capito? Ma sa che lui mi ha dato a me, io l'ho preso, portarmelo via, fra, non hai capito? No, non hai capito, sì. Però una cosa è quando tu al bar, perché il circolo costa di meno la roba? Perché il circolo non ha tasse da pagare. Il bar non sa quante tasse ha da pagare. Ui. Non so il circolo, sì, perché non ti lascia scontrino fiscale. Non so il circolo, sì. E quel tipo scorte guadagna un metro, perché è sempre pieno, no? Quello vicino a te. Ma Antonio va in gamba, Cioè Antonio. Cioè, a parte che sono tutti amici e poi è in gamba lui, la verità. No, il circolo, quello bello è quello dietro lì in via Napoli. Beh, quello è bellissimo il circolo. Sembra un bar. Quello Daniele, quello Daniele è un'altra giusta. Quello è bello bar. Sembra un bar. Sembra un bar. Tu non mi sono già rivisto qua, sì. Sì, non conosco la vita da niente, non mi tempo quando c'era l'altro coso, bar e via coso. No, è bello quel circo. A me quello è nato al bar e poi l'ha passato al circo. Cioè, fin fine con il più circo che bar. Grande sacrificio, ma grande baro mio, cioè a lavorare qua, non so io, le botti in aria, però c'è a lavorare un bel. Oh signori, io vi saluto, che sono arrivato adesso al treno e poi se Dio vuole riaccendo, se non vi coricate tardi. Coricate presto. E se non vi coricate tardi, nel senso di orario mio. Già siamo qua, sono sigaramo a Gia Luca, lasciami che fumo una sigaretta e poi 5 minuti e ritorno, sentiamo dopo fra. Cazzo, ok, ciao Luca, vado a cenare, ci sentiamo dopo, anche alle eventuali ascoltoni, ciao. Ciao Franco, ciao Lucia, più tardi, sarò alla prossima, ciao. Ciao Luca. Ciao Franco, ciao Lucia. La dirighetta. Lucia, che la maglia non è bella. Perché la magliette dici? No, se vuoi non hai uno. Se sono per voluta le occhi. Qui sta sto perdendo questa. Cioè, scusi. No, non lo vedo. Cioè, Grecia, Russia. Sta vincendo la Russia, no? Sì, 1-0. Noi la Spagna ha pareggiato, ma noi siamo fuori. Allora la Francia ci fa un matto. A proposito, ma allora spiegami, se vince l'Italia contro la Francia, andiamo avanti, così. L'Italia deve vincere, capito? Contro la Francia deve vincere, perché l'Olanda ha vinto, ha fatto altre 4 all'avanza, quindi la Francia fa i punti con noi, come noi, perciò deve vincere, altrimenti ci fa le valigie e se ne torna a casa. E vabbè, ci vinciamo dopo il mondiale. Mondiale vinciamo, chi c'è quadra? Lui, non so. No. Andiamo, lasciamo a parte. Andiamo, lasciamo a parte. Abbiamo vogliato 3 perette dall'Olanda e l'abbiamo sempre picchiata. Adesso a me, la dimostrazione con la Francia. Se vinciamo con la Francia vuol dire che l'Olanda e la Romania sono più forti, nel senso che la Romania si difesa molto bene, comunque c'è una grande squadra e l'Olanda è più forte. Se ci picchi anche la Francia non ci conviene neanche andare a fare i mondiali. Fatto bene, direi, Anna, quel film. Non l'ho visto ancora, sto lavorando un pezzo con Ilaria, abbiamo messo il DVD, poi ho attaccato a pranzo, adesso è dentro il DVD pronto, perché è bloccato, dove abbiamo messo già il primo pezzo là. Ecco quel film, bello. E lascia parlare agli altri, cazzo, sono andato dal mio cugino ieri, non c'era. 2 volte sono andato. E devo andare a fare gli altri figli, io ne ho altri 13 a 4. Però ho portato uno. Che cosa avevo dato a proposito? Questo è quello che me l'ha mandato ad aiutare. Ah, Mariolino c'ha, è quello. Ciao Mariolino. Quello è bello, lo stesso qua. Deve sapere altro, glielo dico. Ma faccio le strutture. Perché ho guardato praticamente a farlo vedere a Sandro, a Monari, ma al fratello. E invece, ma pure tu ci lasci lì. Oggi il figlio di Gianfranco sempre c'è al baracchino. Ok, a tuo paese. Non ho più sentito. Ma sono gli appuntini. Miei. Qualcosa non ho più sentito dal tuo fratello. Dunque. Beh, grazie a te. RG 59, quello leggermente più grosso è 58, Non lo sono portato, cioè non lo sono portato, ma l'avrà per quello che stava facendo l'impianto. E ho fatto delle ispezioni, ma non sai quanto aspetta, vanno molto molto bene, perché di 58 di cosa ho fatto due ispezioni, poi di 59, è leggermente più grossa, però molto molto morbido. No, invece che sei un mondo che stavo feuta, ma brutto, più brutto brutto, ma vabbè, non c'erano le forbici ad aste, ci hai dimenticato già di prendere, però un campo, mamma mia, ma carità, diciamo che quello che mi hai dato tu, quello che avevamo doppia a casa, ci lavoro meglio, ma caro, viene meglio. Infatti qua, io non so che cazzo avete fatto voi a piegare la casa, cioè mandarla indietro e poi avvitare il piede sopra. Io non so come dici, ho dovuto fare, capito, tagliare un pezzettino, la metà, poi glielo avvolta e il piede così avvita, se no mandate indietro. Ma è rimasta la macchina, sì, era tutto storto. Si è fatto giusto, giusto, giusto, con la taglierina l'ha fatto Franco. Quindi a Roger Franco rimane vari morsi, quindi io mantenevo il cavo e lui con la pinza, piano piano, fino a farla arrivare a fondo. Lui ha fatto il Franco, ma è la verità. Perché anch'io non ce la facevo a pressarlo, ma Franco ce l'ha fatta. E siamo usciti perfetti, sia quello che è su che quelli che ci sono giù, tutti, mi ha fatto tutti Franco, ma vanno un bel bene. E ti dico una cosa, che mai ne è andato in corto uno, mai, mai e poi mai. Io poi mi ho fatto due spezzoni, piccolini, tre ci sono riuscito, il terzo guarda, l'ho mollato perché mi faceva male le mani della forza che ci vuole per avvitarlo, però se riesci a avvitarlo bene, dritto, e poi lo saldi, è eterno, guarda. Sono dei cavi fenomenali, non ti danno un briciolo di problema, niente, niente, niente. Io RG58 non ne ho nulla, anzi, bugia mia, c'ho quello del dipolo perché non uso grossa potenza e quindi va bene così, va bene così. Una carata di 58. E se mi basta, però le faccio la carata nuova di 59, dell'RG59. Gli altri sono tutti cavi grossi, perché almeno durano lungo. Il 58 da in fase due estate, due inverno devi cambiare, che si brucia tutto, è troppo fine. No, certo, quello qua, quello per farlo durare di più vuole il collugato, allora ti dura di più, sì. Ma no, questo qua si lavora bene, però io ho fatto un errore, siccome c'è una grondaia, quella è, non lo so, se col vento me lo muovo, me lo sposta, e se striscia sopra sono fregato, ci buca. Non so. No, ma io senza metterlo il collugato perché il cavo vuole buono. Vuole buono. Se tu lo metti dentro il collugato, magari l'umidità la cosa te lo marcisce. Lui deve stare all'aria perché è un cavo per esterni, non è che solo che vuole buono. Un 213 di quello a doppia casa, un H100, un cavi buoni che costano soldi, no? Un RG58, un RG8, RG8 va la gomma di ziri di ziri, ha visto la gomma di questo H100 quanto è grossa, io la forbice non ci riesco a tagliarla, tagliavo la taglierina, proprio perché la protezione della gomma deve essere adeguata per l'interno che ha, no? Vanno bene come cavi, vanno bene. E ne avevo trovato due matasse a Popelire, ne avevo preso 100 metri la prima volta, ne avevo divisi con Franco, poi l'avevo detto anche a Natalino, ne aveva preso una matassa anche lui, se l'aveva divisa con Gianni, non so se l'aveva divisa tutta, se ne aveva dato un po', ma cioè, ne avevamo di capo, poi l'altro l'avevo dato anche un po' a te, ma era preso proprio l'amico, mi dice no, già non ti butta su capo. Guarda che 20 anni ha 58, non ne ha 213. Vabbè. Ciao Charlie, ciao, buonasera. Qua Claudio Spogliero, compagnia di Luca, buonasera. Ah, pensavo che avesse quello grosso, forse ne aveva piazzato. Avanti Romeo Charlie, buonasera. Buonasera, Cologna, qua alla città di Sassari, Sardegna, l'operatore Claudio, in compagnia di Luca. Avanti Luca per Marcos. Ciao Marcos, buonasera, dai, ben sentito. Niente, Luca la poeta, città di Sassari, nord di Sardegna, avanti. Segnalito 9 radio 5, 9 radio 5, ok? Questo è? Ok, infatti era un controllo qua, qui Marcos e Claudio deve riprendere molto bene. Non capisco come mai tu stai arrivando così forte e a noi ci ascolti così bassi. Ma una me la faccio prendere, me la sono presa, roba nuova. quindi non è di cicatrici, sono sedi d'ufficio che vanno molto bene. Se non c'è da si fa la cicatrice. Mi sa che non sia nulla. Ma non è che tocca la verbetta, ma secondo me sì. È strano, cioè non è che sia. Non lo so. Non dà più idea. Se c'è un buco in alto, va bene, non ce ne fa. C'è un buco in alto, ci crepa a cadere. Non ci ande. Andà, stai dicendo che sei grassa, il buco. Ma ti va ripitando. No, è normale. No, no, è grassa. È che secondo me tocca. Secondo me tocca una cosa, sulla letteretta. Bugende, 10 anni. Perché qua io mi metto a saltare, no, non fa niente. tutto, tutto, mi lascio la cassettiera, e faccio del colore della cassettiera, faccio fare da Giulio tutto il piano, che sarà lungo un 3,50 m, 3,80 m, largo sempre tutto il piano, ora ci stiamo tutte le radio in fila, di lungo, non più tutte accattattate, tutte di lungo, e basta. E se lo butto, perché ci ho tolto tutto, se tu vieni ci ho tolto tutto, perché mi stavo rompendo le palle, tutto un altro all'altro, non vedo un minuto. Già ti credo, sei l'unico a fare il tuo piano, qua. E sei più bello. Piano piano. C'ho un casino in chi, se no non lo vuoi fare. Scegliamo due una cavaletta in più. Se avessi fatto la sala radio per i fatti tuoi, un computer per i fatti tuoi, uno lo lasciavi lì e poi ti collegavi via wireless, capito? E vabbè, piano piano qua, piano piano. Quella carbonata era bella, cazzo, era piccola, ma cazzo, bella ridere, cazzo. Ma quanto non hai fatto ricordi? Enio, c'è problema. Questo viene ancora più bello, Lu, perché di là era uno spazio è simile a quello, se ti ricordi c'era il corridoietto e via. Quando c'è la porta dove tu vedi tutta la radio, poi c'è la parete dove l'aria c'ha la stanza sua, quindi con la porta. Capito? Quando gli avevo detto, non sei venuto qua, ho detto, ma qua si può fare il tramezzo, viene male, qui, là, bim bum bam. Allora mi ha aggiunto la gardina, no, adesso può fare sì adesso, questa fammi pendiare di là. Ah, sta delle varie. Siccome ho concluso tutto qua, prima invece non sapevo, eccetera, eccetera, cose che lo so. E quindi adesso sto iniziando a buttarci su di WQ. Viene un bel lavoro, molto più bello di quello carbonato, perché la parete in cui sono io adesso è molto più grande, molto più lunga, prima era stretta, capito? Quindi ho più spazio, perché con una sedia, non più due sedie scorrevoli, con una sedia io faccio sia radio che computer, posso camminare in lungo e in largo con la sedia, capito? Il televisore va in alto col portatelevisore, il computer va, il monitor va appeso a parete, non va più sulla cosa, e la tastiera va praticamente allineata sotto la scrivania, come ho fatto a Franco, quello l'ho fatto io con la scrivania di Franco, il portatastiera. Una cosa che ho fatto io, mica è nata così. E così viene una cosa del genere, con due tastiere però, due tastiere, collegate direttamente su due monitor. Il computer rimane sempre uno. Se non so, quel piano mi avevano detto, cioè, mi avevano detto te la sera una mano a Franca a buttarlo, quel piano dove tu hai fatto quel lavoro lì. Se non so, lo so. È bello anche così, va bene, c'è spazio e tutto, non hai problemi, sei tu qua. Comunque, tu mi hai accanto un ghiaccio, ti conviene fare la foratina, mica. Ma poi pesa troppo sul pavimento, questo pavimento non lo conosco, lui. La casa è tutta rifatta nuovo, però è anziana, insomma, è la volta che mi dai cucata e mi tocco pure io in Antaedi. No, faccio anche la lato in cartongesso, c'è un artista a Sassa di Antonio Caggio, mette le guide sopra, poi mette le lastre, fa il coso della porta, ci mettono, vanno doppie, no, le lastre, su guida doppia da 20 centimetri. Capito? Non so se l'hai mai visto tu come si fa. Poi c'è un lavoraccio e poi va tutta truccata la parete, perché va tutta tassellata con le copriguide, i profili portanti sotto e sopra, va tassellata a pavimento, è un grande lavoro. Poi vanno tutte stuccate, tutte le viti, lasciate asciugare e poi la puoi verniciare del colore che vuoi. Perché poi ci va la porta uguale bianca come queste che c'ho io. Uguale a questa la faccio fare, però scorrevole col vetro. Scorrevole. E viene qua, a me mi viene praticamente, l'avevo misurata, mi viene una stanza da 2 metri per 6, 2 metri per semi, mica è grande. Ah, praticamente mi stai facendo capire che la tua figlia lì è addormentata, tu ci, cioè, fai radio lo stesso. La grande, poi mi posso aprire la porta finestra, ho fatto la zanzariera tipo a coso che ancora non me l'ha consegnata, devo andare a ritirarmela così poi me la piazzare. E tutte cose che vengono a mio favore, capito? L'aria è come quando, perché io non la facevo in radio quando l'aria era coricata? Non ti ricordi? Io c'avevo quell'angolo e beh, l'aria non c'aveva la cameretta a fianco a me. Quindi non cambia niente. Anche perché poi il cartongesso è insonorizzato, perché in mezzo, tra una lastra e l'altra, ci va la lana di vetro. Quindi è insonorizzata la sua parete, perciò lei a me non mi sente per niente. Viene un bellissimo lavoro, è una bella stanzetta, tutto il piano nuovo, fatto tutto in legno, tutte le cartine riappese sulla parete, perché ne ho tolto tutto, anche le cartine, tutte conservate in garage. E poi c'è il condizionatore mio piccolino, non so se tu l'hai visto, che quello va spostato leggermente sul mio lato, nel caso ci sia molto caldo, se no lascio la finestra, la porta finestra aperta, che è grandissima, quindi posso fumare, posso fare tutto. Eccolo, praticamente quanto spazio hai più dal muro al muro dove va costruito, quanto c'è di spazio? Veramente sono 2 metri e 8 centimetri per 4 lunga. E tutto il corridoio dalla cameretta? Tutto il corridoio dalla porta sino in linea, infatti il tramezzo va dalla porta, dall'ingresso, dalla prima porta che c'è in salone per entrare qua, sino a filo dell'altra porta finestra del poggiolo, capito? In mezzo ci va l'altra porta per entrare in camera dell'aria. Quella di l'aria rimane 4x4, mica che manna che cagamma. Ho capito. Vedi un po' il zucca, ce ne vale la pena. Se ne vale la pena lo fai, sennò vedi un po' tu, così sono un casino, cavolo, come fai? È un peccato, vedi un po'. Ma vabbè, tornando al discorso dei carbonazzi, lì i muri sono a foratino, ma carbonazzi, ecco perché non ti sentivo lì a te. Io non so a foratino, io lo sei. Che è a cantone, non è a forattino, quindi la parete, quella che io ho con la camera da letto, è molto grossa il muro, caspita, però ti ripeto, questa parete, l'altra, è insonorizzata per il cartongesso, già è un materiale isolante, in più in mezzo, tra una lastra e l'altra, perché vanno doppie in modo che la porta scorra dentro, te lo faccio il disegnino, ci va la lana di vetro ancora è più insonorizzante, quindi faccio un po' da loco, no, viene un bel lavoro, guarda. C'è già il segno anche che ho fatto, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, sono 6 mattonelle da 3x3. Non ho capito, ma vedi un po', vedi un po' tu, come la puoi fare lì, sono un casino, cacchio, è un bel casino. Lo so, la cameretta non è che sia piccola, già grandetta, Puglia. Praticamente tu gli stai rubando 3 metri, così, 3 metri circa. Ho 2 metri e 10 e sono 6, 1, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 per 3, 21, sono 2 metri e 10 di larghezza, è larga, quella che deve fare a me. 2 metri e 10 per 6 metri lunga, fatti lo conto, mica è un bel. A lei le rimane. Sai quanto è grande questa stanza? 6 per 6 è 36 metri quadri. 6 per 6. Ma la mia è di più. La mia è molto, molto, molto più grande di quella. La mia è un bel grande. Sai che c'ho sto cazzo di armadio in mezzo alle balle. C'ho questo armadio che mi rompe, ti ho detto, ma smontalo, smontalo. io me lo faccio, me lo compro, è un piccolo per me. C'è un armadio gigantesco qua, smorto, lo buttano, è nuovo come dove si avvicchio, è nuovo nuovo, ma è grande qua. C'è lì questo qua, l'armadio, me lo levo dai piedi, e mi faccio un coso qua, un piano come ha fatto tu a Franco, e mi prendo quel computer, quello da casa, col monitor come il tuo, là. Così. E invece non mi vuole smontare, ma tu lascia stare qua, poi vabbè. Se ho un problema avrei avuto io qua, è questa armadio che mi rompe le balle. Quella stanza dove stai parlando tu adesso è più grande di questa di l'aria? No. Minchia. Mica il salone che c'avevo io era... allora era... Sì. Sì. Era un bel grande, era. Era un bel grande, ma orientativamente non era grande come questa stanza, eh. Attenzione. Era molto lungo, ma era più stretto. È enorme, mi raccomando. Stai noi a lei le rimangono i metri quadri a lei le rimane 6x3, a lei le rimane 6 metri larga per 3 metri rotti di larghezza, quindi sono, saranno una ventina di metri quadri, sono tanti, a me mi rimane, sono 14 metri quadri, va bene, questa è grande la stanza, un bel grande, no, ma viene un bel lavoro, se c'è un qua viene un bellissimo lavoro, bello, ordinato, tre stanze praticamente, ci sono pure, tre stanze, perché qua un domani ci può fare anche un'altra cameretta piccolina, non c'è problema, va benissimo, alla grande, è più piccola di quella di Carbonati. Più minore di chi c'è carbonate, più o meno sono lì, più o meno sono lì, e questa c'ha due stanze grandi, di cui si può ricavarne un'altra, quella là no, quella là c'era l'anditino, l'andito è dove io poi avevo realizzato quella riscega dove ci andava l'armadio a muro, lì avevo fatto i piani e avevo messo le radio. Qua viene una cosa simile però molto più lunga, più bella, anche perché c'è la porta finestra, capito? Già te lo faccio vedere. Aspetta, ho preso, sta qua, allora sta qua, ho misurato, non mi ricordo qua, forse quella lì è più grande, cioè più larga, come la retro è più larga la tua, ma cioè, la mia è più lunga. Sì, più lunga la mia, come è stata qua. Boh, mi sembra che era... l'avevo misurata. Perché da qua a qua ci saranno due... Poi sia 4 metri di larghezza. Di più anche. Forse di più. E di lunghezza saranno... adesso non mi ricordo. Due... non lo so, 5 metri... no, di più di 5 metri. Sì, forse, non lo so, forse la tua magari è più larga e più corta, la mia è più, la tua è più larga, però come entrata è più corta, ok? Invece la mia è più lunga e lei diventa più stretta. Ma io mi misuro, mi piglio tutti lì. Questa è 6 metri lunga, guarda che tanto per una stanza 6 metri, 6 metri lunga perché ci sta il tavolone da 4 metri in terra, più ne avanza un bello poco, un anta e mezzo di un armadio, quindi sarà 5 metri 80, vai, lunga, R 5 metri e 20 larga, mica mannami. Adesso non mi ricordo bene, no? Comunque la mia è grande lo stesso, e la voglia no, che fa le stazioni, la voglia, sono le prove, ma è sempre questo armadio, perché volendo dalla parte dove c'ho il letto io mi facevo male un piano tipo quello che hai fatto tu, secondo me, quindi chissà tanto visto per mettere i baracchini sopra, magari il computer, questa roba qua va benissimo, ma anche più corta, mi interessa un paio di metri, due metri, tipo quella di Franco, più o meno. Va bene, da una parte poi ce l'ho letto io, poi dall'altra ci metto il coso, il armadietto per me. Comunque sembra così, ma poi c'ho, a parte il coso, il io posso fare anche un armadio e incasso, io ho uno spazio anche, non so se quante, mi sembra sia 3 metri circa, 2,50 metri, largo, cioè di profondità sarà 80, forse anche un metro, e posso fare anche un armadio incasso lì, perciò lì rimane sempre, cioè non mi rimane mezzo ai piedi l'armadio, non mi capito, ma è in caso e via, non ci vedi nulla. È tipo come avevo fatto io di carbonati, quello però l'avevo fatto tutto io, tutto il legno, studiato, fatto, sportelli, sportellini, l'hai visto. Qua non ce n'è alimentatore, non viene più alimentatore. Qua non ce n'è più alimentatore. Qua oramai tutti alimentatori di linea, completi. Tutti pronti, fuori, ma tre figli. Poi nel caso ho messo da qualche alimentatore, faccio sì che sia nascosto con qualche sportellino o qualcosa, insomma. Devo studiarla bene. Con cassettiera, tutto. Se ci avviene un bellissimo lavoro. Un bellissimo lavoro. Adesso volevo solo aspettare che il comunatore sta finendo quel bar nuovo che stanno facendo lì di fronte alla questura. Bar tocca e fuga, quello lì. È così. No, anche questa parte è abbastanza grande, ho voglia. Non so anche quanti metri quadri sia questa qua, l'appartamento, non lo so. Comunque è abbastanza grande. Mi sembra che l'altra camera è più grande di questa. Sì. È più grande. Perché tu bravi tagliarmi in sì prima. Questa c'è questo appartamento. Perciò, cioè ci quei miei fratelli più mia madre, sono sì. Allora siamo in tre, ognuno va i batti su. Vabbè, la mamma ha cazzato 1000 volte, smontalo, cosa ne fai, è troppo grande, ma smontalo, si compra, non si fa fare, cosa ne so, un'armadia in casso e via, rimane più, c'è più spazio e tutto, là. No, non ne vuole fare, non ne vuole fare. Purtroppo sei riuscito, sei anche l'ultimo, mi associa, dico fai così, fai colà, no, lascia così, lascia qui, lascia là, vabbè. Avanti chi vuole entrare, chi è Fabrizio? Avanti, aspetta. La porta è aperta. E ciao Claudio, ciao. Ok, tutto a posto, avanti Claudio. Qui hai schiacciato la porta anche là. Come? Qui hai fischiato là. Io, l'altra parte è negativa, non ci fischio mai. Tutto giù fluscio lì a te, a portante. Allora qualcuno ci sta ascoltando, farà bravo. Allora, 432,750 l'aveva portata. Sì. Allora, portassero i 20 metri. Quindi la scuola, tra l'altro c'è il contest, così, arriva a mezzo mondo. Ho fatto 4, quanti ho fatto? Ce l'ho qua, log, anzi, me lo devo segnare. Aspetta un attimo, me lo devo segnare ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, addirittura ho fatto un Sierra Sirofono 24, ecco, Lima, India, un greco in 50 mega, una bomba, con la radio nuova, una bomba, ho messo l'antenna sul tetto, uia. Sei a 4, tanto, a sera, c'è Gianni Cugiante, sì, a fare così, sì, ti ascoltate, 50, 50 mega, per ascoltare, io, W. Sì, ma lui con 3 kilowatt e io con Pocarlo Belli, lui in direttiva, io in con la filare, noi abbiamo fatto dei collegamenti, lui chiamava e poi via, tutti e due assieme, ne ho perso uno, poi mi sono spostato in a 21 e a 21 mi pare 2,50. Oggi cultura giù sono a te, sia un greco in 20 metri ho preso, le antenne che ho messo sono buone, sono filari ma sono buone, io ce l'ho di 5 RV, quella lunga ce l'ho prima con la corta, fa 10, 20, 40, 80 e poi c'ho quella di 6 metri, sempre filare, invece in 10 metri vado con la verticale, con questa poi a 9 ne panni sciumi. Poi devo fare un bel lavorettino e vi lascio per la antenna giù, è un po' come sposto, ma se mi lascia una 9.40, 9.50, mi ha fatto a campo, oh, vado lì, dove sono io ascoltato con il pezzo di filo che arrivano fino ai paurosi. Allora io la conosco qua Fabio, ho ottime soddisfazioni, quando ero su non avevo le soddisfazioni che sto avendo adesso, soprattutto perché sono libero verso il mare, non ho ostacoli, sono più basso come livello e quindi le antenne stanno radiando una colonnata. Ah, ci ho messo mezz'ora ieri a montarla, era già pronta, non te ne avessi metri. Ho messo, adesso a vedere un po' se va bene così, la lascio così, se no le sposto appena appena i bracci più inclinati, ma dovrebbe andare bene così perché mi lavano tutti 5-9 più, quindi ottima, va bene. E prendi Luca, 2 secondi che vado a bere e vado a bere. Ciao Fabio, io poco fa non ti sentivo perché c'è il tuo in chiuso e ogni tanto bussava anche spagnolo, allora ho chiuso. Allora, rientrato. Ho fatto il direttivo, ho fatto il lavoro di ho fatto una 50 di collegamenti stasera, il 27, da paura, c'è il segnale, ma stavo utilizzando la direttiva, poi vabbè non c'è niente, c'ero una serpe piccolina, con la potenza 100 watt, diamo fino alla mercata, ma sarà, potete guardare questo qua, il confine con la Slovacchia, tra la Slovacchia e la Polonia, questo qua mi ha dato, segnale 9.40, capito, 9.40, vabbè, è una direttiva, ecco 100 watt, è stata collinare dal gas in sì. E manda la batte? Sì, eravamo, 27.800 qualche cosa. Qui stiamo utilizzando un chemo di 140 con la potenza dell'apparecchio. E stamattina stiamo utilizzando un dipolo, io invece in direttiva, faccio una data 9.40, ho scelto un vaso, allucinante. Beh, una propaganda è buona, gli arrivi. Arrivi più forte in propagazione che in locale, è così Fabri, è così. E anche noi abbiamo fatto qualcuno stasera, da 45, però vabbè, me ne passo dalla fantasia, tanto sempre la stessa cosa. Buonasera, ciao, dove parli? Io parlo da qua, io parlo da là, bum bam, segnale, bim bom, bum bum, bam bam, il tempo com'è? Oh, Fridu, finito il collegamento, non sei così lì da voi, capito? Poi se trovi a quello magari che ha voglia di farsi due chiacchiere, oppure magari trovi quello che parla e poi inizia, vabbè ti saluto, perché la propagazione sta scendendo, cioè sta sparendo, che poi magari il segnale è sempre stabile, capito? E così, no, prima io mi divertivo di più, prima, adesso quest'anno proprio zero, zero, non so, sono, mi chiedo a Claudio, ho fatto dei collegamenti di lusso, è proprio qua c'è locale, questo tipo, adesso mi ricordo di dove era, ma tranquillamente, Fabri, di lusso. Però io ho fatto tanti collegamenti in quelle qua, ma segnale così forte non l'ho mai dato, liscio, stavo utilizzando 120 dell'apparato, liscio, 940, ottica avvicinata, questa parte era buona, però ti ripeto, non è mai successo dei segnali così forti in quelle parti là. No. Ma comunque questa parte era per parte, perché vogliono fare la paura, l'altro modo. Come l'avrei fatto, la verità. Qualcuno magari in banda, ma purtroppo c'è un apparecchio che non mi ha spostato ed è un casino per me. Nell'USB va bene, dai, va la grande, ma in un USB è spostatissimo, perciò non neanche ci provo, guarda, neanche ci provo a stare lì a rassirlarmi la testa, blecco, ui, no, ne facciamo meno, Fabri, adesso vediamo un po' se riesco a metterlo a posto un po', a riallinearmelo, perché l'avevo già portato, l'avevo dato a Luigi a portare a Cagliari e mi aveva detto che il tipo, l'avevo anche scritto, c'era un problema al potenziometro, che aveva preso un colpo. Vabbè, cosa ho fatto? Ne avevo uno uguale, ma poi glielo ho sostituito, poi pensavo era quello, non è cambiato niente, ma è sempre un Mattesi. Ma ti ricordo che ho l'altro giorno di eri fuori, in USB eri fuori di un po', invece l'USB no, andava bene l'USB. Ma purtroppo loro trasmettono in USB, è raro che senti gente trasmettere in USB. Beh, lo so, però cazzo, devi essere divertito, poi c'è un mio amico che dice sempre la... così anche il tipo diciamo è un masso verso il mare, grazie a Dio, solo e lui purtroppo rispetto a me è rimasto basso e io l'ho fatto alla grande, quanto di problema, lui attacca lineare e io liscio arrivo di sui segnali, solo lui c'è linea attaccato e io no, purtroppo quando c'hai differenza di altezza lui arrivo di mare, io invece sono in collina, vedo tutta la costa, dalla punta di Stintino a Porto Torres fino appunto quasi alla punta di Marrizza, di Belle Rizzate, quella parte lì, tutta, questo è il suo problema. E più a Dio già verrà qua. Adesso. E quindi poi può passare oggi c'era la paura, infatti tipo Spagna, Portogallo, tutta Germania, vanno a Milano, ma col sentivo. E la parte era trovata, ti ripeto, questo ho fatto una 9.40, questo qua, confine con la Slovacchia. Pauroso, cazzo, e sai che stavo 100 watt in direttiva. Tu lo già usi qua, un 100 watt? No, negativo. Ma quando dietro ho 20 watt, non la faccio uscire mai di più, capito? Però giù c'è una direttiva, c'è una quadri cubica, c'è un calcio di 15 volt, capito? E poi vale sono i fuori che scendono, e poi c'è un altro traicetto di 4 metri in terrazza, che c'è una tele elementi tra i game, e poi c'è una 4 elementi per le. Quella è un'autocostruita, capito, per la 27. E poi un'altra, poi smontata, non so la cazzo metterla. Io ce la viaggio in garage, non la metto direttivo. Non metto più per filare io. Troppo pericolo, voglio dormire io d'inverno, oggi c'è anche tantenne robattica. Sono agli agi, ho tre elementi, proprio per i semetri, però non l'ho mai piazzata, ce l'avevo già la carbonata, non l'ho mai piazzata, allora sempre in garage dentro la scarpa, non va notte, infatti il rotore l'ho regalato a Franco Delta, perché non lo usavo, non mi serviva. KK. No, ti ho chiesto se qua tu il 27 usi una radio simile a questa. Ah, sicuramente sì. Che tipo è? 14, 44, cos'è? 45, cos'è? No, c'è 45. Ma per quello che ho avuto l'azione frigola. L'avevo già capito. No, no, io l'ho avuto. Ho avuto sia il 45 sia il 450 che l'850. Però non sono radio che mi sono mai piaciute. Digitale per me niente, io ho tutto analogico, tutto. Tutto digitale, c'è solo l'ultimo arrivato basta. Quello purtroppo è digitale perché oggi non fanno più analogici. Però se dovessi ricomprare un'altra radio la comprerei sicuramente usata, buona, però sempre analogica, no? Non ci vado d'accordo con digitale, perché se ti accorgi la limpidezza che c'ha l'analogico di quella serie lì, tipo 440, 140, 180, perlomeno come li faccio andare io, rispetto al 450, all'850 c'è un abisso. Un abisso, anche l'8 50 io quando lo usavo il 27 perché ce ne avevo tantissime di radio, adesso un po' li ho eliminate, ma quando ce l'avevo solo con la 27 io quel tipo di radio lì sono riuscito a farla andare alla grande l'8 50, ma con prove, controprove eccetera eccetera. Col 450 non ci sono mai riuscito, è troppo stridula come modulazione. Ma guarda, io ho anche una linea 430, una linea completa 430, sai, ma vedo un pubblico che è nuova nuova, sembra, sembra tolta dalla scatola, cioè completa con l'alimentatore, il 745, poi il 430, la colonnina e l'apparato, è nuova nuova, guarda, tu lo vedi, sembra cazzo, sotto di oro sta dalla scatola. Va benissimo, tranquillo, ma che con un amico, se lo prendevo, se lo trovavo a passare, non l'ho detto perché non mi piace, poi è efficiente. Il 430 io l'ho avuto, è stata una delle prime, ha una bella ricezione, rispetto ad altre radio di quella serie lì, ha una bella ricezione, è che ha poche memorie, non ha molte cose, però diciamo che mi è rimasto, ma gli va bene. È una bella radio per usare la 27, per fare HF, no, perché mancano tante cose, non ha filtri, non ha niente, poche memorie, ti ripeto, poi non ha le funzioni di doppia conversione, tripla conversione come questa, come 440 eccetera. È la prima serie, però ti posso dire che è un bel modulatore. Non è completa quella, ti manca la T250. Io ho la linea completa del 140, ho la T250, la radio, il PS50 che è della linea del 440, però sta giusto nella linea anche del 140, e l'SP430 che è la colonnina sua, colonnina C60, quella linea completa del 140. Perché sul 140 e sul 430 ci andava la T250, la correttore esterno. Non si trovano, io l'avevo trovato per culo e quindi avevo completato la linea. E poi gli altri che sono tutte apparecchiature HF. Allora vabbè, un bel di nave come Fabri, lascia verde, un bel di nave, io dico, mi diverto con le filari perché oggi con il mio misero dipolo dei 6 metri ti sto dicendo che sono arrivato dove arrivava quello che stavi sentendo, chiaramente lui molto più forte di me perché c'aveva anch'io la T-Sort direttiva, però io non ne ho preso una, Grecia, Cecoslovacchia, Ungheria, spagnoli a tutto andare, però i 6 metri non è facile, lo sai, è una banda particolare. Comunque è completo che manca la curatore, non so se c'è la curatore già separato, se non c'hai l'antenna giusta, il cattura ti crepa, quindi automaticamente come ti sposti, devi per forza avere una curatore, non è che ti sposti così. Vabbè, io sulle radio del CHF c'hanno tutta la curatore automatica. Su questo qua c'è la colatura automatica e quindi non c'è problema lo stesso. Io sul 140 c'ho la T250 esterno, d'accordo anche. sempre il ferro in automatico, sempre in automatico, ovunque mi sposto. Sull'altro io lavoro senza correttore, con i cementi lavoro senza correttore, perché vado da 50 a 53 MHz con 1,1 di stazionario. Fatto proprio a regola, non l'ho fatto io, dico, è già arrivato così, ho imparato alla perfezione, è con 120-130 watt modulati, va di lusso, di lusso. Mentre invece le altre antenne, la di 5 RV, lo stesso, in 10-20 stazionale non ne ha, mentre in 40-80 l'accordatore credo che quando mi sposto parte, quindi se l'accordo automaticamente. La bellezza di quella radio che mi è arrivata è che ogni, anche in ricezione c'è l'avvento, anche se tu non la usi. Come scalda, poco a poco che rimane acceso, parte la ventolina e poi si spegne. Va bene. Niente, oggi ti vuole un bel idea, lascia verde. Luca Giorgiano già vivo a occupare la radio. Vabbè, ci vive una capo Luca, lo so anche io. Ma qua ho comprato, non è che è stato. Ma qui abbiamo un proposito. Sai, se non è manco, solo una cosa. Quel vecchio senso di casa. Poi del resto, a livello di attrezzatura, potete ammazzare qualche duro di questi che ci sono inseriti a qua. Ma allora, di questi non venivo a presentare a poco. Capito? Non è per vantaggio. Mi manca solo quel mezzo fuso, speriamo di passare. Poi altrimenti non manca niente, c'è tutto, dalle antenne, l'apparato, eccetera. Ci vuoi anche tu, dove hai fatto la domanda? Casa, capito, speriamo di passare, questa è una stabile curva. Bisogna... Bisogna studiare, Fabio, bisogna studiare, bisogna andarci con un minimo di preparazione, non riuscire a andarci passo basso, se no, no, no. Adesso sto studiando anche, anzi, il 23 giugno ho l'esame per quella nautica e ti sto dicendo che sto studiando, perché non è facile. È sempre sono dei quiz, quindi come adesso. È facilissimo per chi va adesso, se hai un minimo di preparazione, che hai studiato almeno la normativa, le cose essenziali, riesci a farlo il quiz. Ma quando l'ho aiutato io nel 93 assieme ad altri, ti posso garantire che non era facile. Dalle 8:30 del mattino fino a mezzogiorno, il compito scritto, poi c'è l'orale, quindi ti dico che farli tutto il giorno lì sembrava un diploma di Stato. Invece adesso ci sono poche cose, ci sono queste domandine, di rispondere e via, perciò se ti studi un po' le normative sono sicuro che ce la fai. Vabbè, signori, io me n'ando a dormire perché domani devo alzare presto, non perché devo andare a lavorare, ma devo fare cose a presto e poi c'è un paio di appuntamenti e seguo pure il fracco. Lascio intorno la pastiglietta, fumo una sigaretta e poi me la vado a andare. Quindi vi saluto, grazie alla compagnia, saluto tutti quelli che sono all'ascolto, saluto il dottore, rifiuto l'offerta e vado avanti. Allora, ci sentiamo. Buonanotte, stando bene. Ok, avanti Luca. Io ho già andato. Sono andato dalle 6 stamattina in piedi. Ciao, qua ci sentiamo domani. Se coincide, va bene. Ciao, pagà, faccio a tutti e due domani, buonanotte. Ciao, Luca, c'è ancora. In giro. In giro? In giro a quella donna. Provo a vedere il fucilato lì a quadrato. Claudio, bello stato. Dunque di preparazione la mille, in tutte le parti, dopo facciamo un conference italiano, mi vedo dentro. C'è tu il caso. Io li ho già arrivo, ma non mi interessa appunto. Non mi interessa la vita. Oia, casino ragazzi, questi baracchini, un casino. Si ascolta, capito, non è capito. Non lo so. Io, tu gli hai fatto la va bene. Ecco, stavo passando, mi subito era un caso, non si poteva lasciare. Se sì, la chiesa c'era il bagno, era grande. Perché? Così è buono, un caso non mi piace, eh. Ho detto il caldo, non è che mi piace più di tanto, preferisco l'inverno. Sì, vabbè, qui è una stanza più tranquilla, una temperatura buona, tipo 30 gradi, 28, va qui, ma meglio di vento, perché se è troppo caldo potrei lasciare a mare. Vabbè, sono quei gradi lì, sì, vanno bene. Ma io sono 40, 42 gradi, mamma mia, la notte non dormo, cazzo è bruttissimo, faccio una stanza tipo 28, ma sono 30 gradi. Più che bene. Così si vuole, la temperatura arriva più che bene. Ma quando inizia a esserci quel caldo brutto, mamma mia, che stai in butta a terra. Io mangio solo frutta e frutta e verdura, ma. Allora, purtroppo. Dunque, la 15 giorni di questo mese sarà mangiato il tempo in sabbia. Ho capito, questo mese? Meglio, 15 giorni, se l'ha già mangiato in tutto il tempo. Beh, chissà a luglio, cosa ne esci? Ma se fa come altro stato, che proprio, tipo, in 15 giorni, 10-15 giorni di aria rossa, non caere, la brutta. Questo lo faceva più quella cosa bella. Si spostava la metà meglio, il 20. Capito, dove mettiamo? Non è facile essere 4 mesi pieni. Ti già lo so, ti parlo lo scorso. Questa più brutta, più bella, che passa la rossa, che passa la rossa, con 3-4 giorni più già avvicinato, tutti ce l'andava. Vabbè, c'è chi piace, ma io prima a me facevo un sacco di stato, mi pareva vero. Beh, cazzo, avvicinate. Aspettavo apposta per andare al mare, adesso manco la ticcava mi basso. Io stavo sempre lì al villaggio grigio, sempre. Al secondo pittino ho dentro il villaggio grigio. Qui c'è più movimento, più movimento. Non lo so. Ragazza. Bambolina! Un giro a trovare qualche persona, qualche donna. No. Sì. Luca, quanto è il mio segnale? È la modulazione anche? Vai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Segnale 6, 7, modulati 8, radio 5. Ah, ho capito. Tutta serata, radio 5 è perfetta. Che andava io vabbè, ma dove c'era il dipolo sul tetto? No, il cavolo alla vetta, ma la cavolo all'altra. Brava, questo è buttato così, non è che la cosa è passato normale, diciamo era più piazzato per riscendere bene verso il mare, capito? Non è che non sono abitato per l'arci, io dico ogni tanto quasi che si chiama una piccola ruota, allora entrava qua, perché non c'è la ruda. Ma se parlando quello della 27 o di altre frequenze? No, con la 27 e 45. È pompa da. Va bene. Certo che forse mi muove direttivo, sì, magari una parata sulla di più. Però ti ripeto, è stato piantato più per ricevere che per fermare. Capito? Se non è che mi batteva quando sentiva quel sistema, quando c'era occasione. Vabbè. Poi c'avevo il dipolo da 27 anni, lui. I primi giorni andava bene, anche se avevo un po' di stazionario. Poi mi ha preso un po' di acqua. Cattivo è a nastro, organi tutto, ho smontato. Sì, sicuro, se non lo fai TV, capito, sicuramente. E faccio il lampato. Ma l'hai comprato così, ha fatto o l'ha fatto tu? Fatto, ma è vero. Di fare così, poi tutti i cavalli civici e chi ha solo per fare chi usano, che televisione di cazzo usa, ma che cose, va. Trovo già le cose, come mi è successo, non c'è pagare. No. Ho fatto tanto una. Cazzo uno. C'è uno che dalla casa mia sta arrivando a 200 metri. Cazzo una dice che gli è stiva, io gli è stiva. Parlare, ma passo non se lo faccio arrivare, adesso facevo tipo a casa, quindi se sono andato in casa non faccio niente, capisci? Capisci, sono andato a vedere, a prendere una televisione del dopoguerra, avrei avuto 60 anni la televisione, a barro, a bucciare, e qua io mi trovo in cuore su questa situazione, ho fatto una cosa, ho fatto una a casa, ho fatto un televisore buono, l'ho portato, l'ho attaccato da lui, e non facevo il tizio, neanche lo veniva attaccato, tra di una trappa della televisione. Cioè, ha cambiato dopo? Allora, no, era un uno di quelli, no, me l'ho fatto un regalo, un televisore buono, io sono messo scogliato, se mi scusate, è quella contentata, di Dio. E quindi per sapere come si usa il buon vicinato, io voglio regalare, però io non li scusa, che la sua divisione, che ha fatto 50 anni, non si sente uno per la decisione. E poi devo tornare alla cerca, c'è il buio. È quello, guarda il tuo. Televisore di quelli vecchi, cioè che stavo macinando, da regalare, dare il mio, questo se lo piaccio io qua in camera. Ma che mi è intenzionato di regalarglielo, di prendere a portarglielo l'uscio e darglielo. Che fa? Ma fa vedere la macchina. Ma anche se l'hanno comprato, però non mi hanno più sentito né niente. È andata da molto vecchio. La cosa è vecchio. Ma io mi dicevo bene, Berini, diceva bene. Questo, che ripeto, che cazzo io ho detto? Metto casa mia, non mi disturbo, niente, è anche una televisione, è sotto la piantella, e non mi disturbo un cazzo, niente, zero. Cioè, io, se cazzo, la piantella va di 18 metri a casa mia, mi disturbo. Allora, fate sapere, ma come sapete io, ho fatto anche una paracola. Mi disturbo a te, questo qua, cazzo, non ti risolvi, che se cazzo, che se un cazzo. Cazzo, per tutti gli disturbi. Cosa ho fatto? Ho preso un televisore a casa, l'ho messo, ho fatto le prove e non facevo tipo neanche un lineare, con gli stili fatti su antenna. E vuol dire, ha fatto bene. Televisore ci vuole, non quelli cazzo di 20 anni fa. Questi assi di ultima generazione, quelli sono bombo, sono filtrati bene, tutto quanto. Vanno benissimo. Io ho fatto la guerra qua, mi ho degrini, io. C'erano giorni che ho fatto modulare perché loro erano in campagna, venerdì di silenzio stampa, anche nel FM disturbato, perché cosa succedeva? Mi sentiva basso, però durante la notte il marito si metteva le cuffie, non disturbare i figli e la moglie. Cazzo di amici, mi sentivo un bel, facevo un baracchino, poco mi trattavo. Caro Luca, quando il cogliere sei il coglione, quando c'hai il condomino, è un cazzino, sei disturbo, sempre se tu vedi il serpente, il cogliere che si punta la guerra, capito? Io vabbè, io fui diretto, io ero, ti ripeto, questa è la casa mia a 200 metri, pensa un po' che se non ha più spazio, 200 metri, pensa un po' che bidone era quella provvisione, era 50 anni, assumiva tutto, tutti gli studi immaginabili, capito? Io ero in grado, guarda, per tutto c'è questo qua, cioè, io il cazzo di Marcello, il cazzo di Marcello, il cazzo di Marcello, il cazzo di Marcello, e l'ho fatto io, a questo cogliere. Come la buona, la vita di ultimi stati, là. C'è stato un altro, di Russo, non gli si dava niente. Russo era un solo io di tutti, dove è stato il pericolo del cielo. Che ci fai con i dinami, Fabri? E forse nel sud. No. Ma io dico questo, su 20 famiglie che siamo, cazzo, disturbavo solo la questa qua. Ce l'avevo disturbata a tutti, ma si disturbava solo a quello, e perciò per me era quello, televisore vecchio, Guarda, dentro una riga, solo nell'audio mi sentivo. Ah, niente riga, c'è solo la voce. Solo nell'audio. Ascolta a me, ma era una televisione, una antenna centralizzata, ognuno di voi ha un'antenna per i cazzi propri. No, ognuno c'ha la sua. Però voi non sapete che la diagnostica, tanto che su 20 distribuirà una, cazzo vuol dire, quell'antenna che c'è già fatto il filtro, un consumato, non c'ha filtri, oppure l'apparecchio che ci ha detto non c'è l'antenna. E così io ci sta a fare. Si finisce solo a colpa al baracchino, capito? No, allora hanno gli apparecchi cazzo di quelli che non vanno in guerra nulla. Loro dicono questo, io ho questo, tu ti metti a fare la baracchino. Però non gliene frega un cazzo, ecco come ragionano. Così, infatti così è stato. E vabbè, ma me tre volte il cavo l'ho tagliato. La prima tre ci avevo messo, tre volte. Infatti poi, una volta il coglione avevo attaccato tutto, venduto tutto. Tanto come la sentiva a fare articolarietti. Infatti avevo fatto anche disdetta a Cagliari, non avevo più pagato niente. Infatti avevo fatto tutto quanto il rinnovo del... diciamo, la domandina che devi fare, no? E io ho spiegato, faccio così, così. Infatti metto lì lo sacchi, e insomma, diciamo più o meno, ma non sono sicuro. Poi stava lì a rompermi le balle, cioè mai voleva sapere chi è stato per amica e niente, ma non mi hanno fatto pagare niente in più, nulla, neanche un centesimo. Pagato quello che dovevo pagare, cioè ho fatto a novembre e poi a novembre a gennaio e questo gennaio qua di quest'anno. Adesso già tre, meno di magari. Qui sto pagando perché sto utilizzando l'apparecchio. Adesso non ne avrei pagato. Cioè, ne avrei bucato tutto il mattessi, anche se avrei disturbato. E qua è un casino, te ne vedi, ce ne sono un sacco. Ascolta, poi come la sappiamo di televisione oppure l'altro. No, adesso se l'ha comprato loro il televisore. Di quei televisori che la prima non c'è non sono niente, la domanda la prossima facciamo un'altra. Ehi, vabbè, se l'ha cambiato perché si è rotto, se non serve avrebbe continuato ad usare quello. Vabbè, si è rotto, ha bisogno che ti rifà la scena che gli manda giù giù. E era già così, stava già partendo. Guarda, quindi mi devo lavorare il mio, non gli ho detto niente, ma stavo pensando, ma non male, guarda. Se io questo qua ho pagato 220 euro, se no mi hanno regalato. Non so, ma sì, se lo stesso io l'ho fatto, poi io ho speso, non costava qualche misura di 400 euro, però riferato la casa, quindi di fare a mio stare, tirando le somme, ci ha fatto guadagnare il doppio, capito? Ci ha fatto risparmiare il doppio, quindi tirando le somme ci ha sempre guadagnato. L'ha fatto perché non volevo essere un suo, abbiamo questi coglioni, capito? Era l'unico, l'unico. La prima quella volta in dieci a Pascara, che avevamo fatto, lineare attaccato direttiva, e poi con la bestia grande, utilizzando. Però purtroppo non si fa la prima volta, solo una, però poi trovate il coglione e non fare i gruppi, e quello è la cosa peggiore. Però insomma, la linea però ce l'ha trapata, insomma, da giù al mare. Sì, giù, no, parla, giù, capito? Per dire, io mi sembravo a 200 metri questo coglione che era la piscina d'oro, a 200 metri, capito? Poi deve fare a confine niente, zero. Ma questo coglione gli si dà la televisione, e utilizzando solo 104, capito? Un cazzo mi si tira sempre, mi si tira la voce e il rio. Il mare mi aveva impianto un po' la gastriglia, ma... per carità, eh? facevo tutti i balli. Ma chi ha mai detto? Io ti hanno giù passato un bel. Poi sono stato, si può dire, sempre in regola, non è che ero pirata, sempre in regola. È un casino. Io conoscevo un baracchino che c'ha le ruote, no? Su 30, su 23, su 14. Poi ti faccio un vecchio, faccio due passaggi, un campanello, mi stai turbando. No, purtroppo è così, carina, però io ho fatto la vita che ho turbato, questo è il fatto, hai fatto il fatto in altri, fatto che siamo vicino a me, non mi disturbo, ma tutto è trombato, tutto è lineare, ma è stabilito, nulla, niente, ma quale, niente. Hai detto Guglione, hai fatto questo mandato, c'era la batteria, il risicchio, la valvola, tutti i buchi male, ma è così, te lo stia dicendo, Oh, non vedono. Poi, se tu disturbi, la colpa non a te. Perché anche se televisione è vecchio, lo vedo bene. Però ragionano così. Vabbè, comunque l'ho costruito per questa TV, ma l'ho fatta Adriano, praticamente una prolunghetta, no? Con abbiamo fatto un avvolgimento con la ferrite, e ti posso dire che sì, entravo ma basso, però quanto io non lo uso tranquillamente, la notte ma un po' meno, perché sai, cioè, il maestro si metteva le cuffie per ascoltare la TV, mi sentiva. Adesso no, niente. Visto il video di Vanni, io a casa mia mi stupo solo il Rai 1 e quando vado nel canale di altri, ma solo il Rai 1 e basta, e distribuivo appena il Rai 2, ma poca roba, e nel resto tutto roccia senza problemi. No, ma io ho detto volevo come che erano i rapporti, erano io lì, quindi volevo rimanere ancora con i rapporti, ho preso la televisione, era qualcuno, andavo in sola pressione, non c'è solo tanto le spalle, non so quanto sei bene. Non lo so, troppo così. Ma chi no, si è sempre saputo che se disturba, poi dipende da come fa l'impianto, ovviamente. Vabbè, purtroppo non si. Mi sono levato un peso, ma non per niente, perché cazzo, ci sono nato con questa gente qua. E purtroppo bisogna diciamo, rispettarle, ecco, però anche loro devono rispettare me, bisogna andare d'accordo, se in chi mi sembra via e non va bene. Infatti mia madre non era d'accordo, perché quando ho messo la strada gli ho detto alla mamma, ti metto nel baracchino, tu non devi piazzare nulla, perché lei si è ricordata che anni fa disturbavo, però siccome sono un po' prepotente, ci vuole essere mai giubiata da una testa, tranquillamente. Le prime prove sono quelle di se disturbo o non disturbi, e disturbavo. Ma ho fatto mettere filtri, qualche cosa. C'era quelli di disturbavo, quando anzi qua va per appena, vabbè qua c'era, da noi c'era l'altra un po' messa male. Però l'ho cambiata, andava giusto la grande. Poi facevo delle striscioline invisibili, però qualcuno qua le vedeva, certo, ci devo rimettere gli occhi sopra alla TV, sennò manco te ne abbizzavi. Audio zero, non audio niente, solo righette e basta. Non busso qua nulla. Infatti ogni tanto quando capita che c'è propagazione su 45 vado lì. Mia madre c'ha il digitale, quando mette il digitale e non disturbo, ma ci si usa in analogico, si vedono le righe, come le fa anche da me, le vedo anche dal mio. Più filtrato, più difficile sembrare digitale. Lo so, ma se anche Fabri che l'antenna del baracchino praticamente a livello i radiali sono a livello dell'antenna TV, poi ci vorrei che sia da in cose dovrebbe essere sempre l'antenna del baracchino, ma c'è 3 metri più alta da quella della TV. Faccio la mia e appari alla tana TV, poi c'è magari per quello, poi vabbè questo baracchino è un po' diciamo toccato, ecco, se magari lo metto come la prima non disturba niente, ma è un po' tirato, forse anche per quello non disturba. Sì, lo lascio con 5, adesso c'è con 12. 12, non lo faccio anche a 15, a 15 watt, sai. Ma tu, qual è la filosofia antenna per sfruttare il giro di televisione? Perché non mi fido. Non mi fido. Anche se ho messo le staffe cementate nel muro, ma non mi fido. Se mi va da voi, sono danno di forza, non è un'idea. Diciamo, le terre sono tutte le marce. Sono scendo per terra. Che faccio? Hai il come ti sta piovendo? Il petto ti sta piovendo. La dipendenza? Sì, sì. Ma dove l'ho messo queste gatte? No, io c'ho, non so se lo capito io. Praticamente già c'era il coso, come si chiama? Lo spiovente, che era dal tetto, lo spiovente alto sarà, perché ho messo 70, 80 centimetri, forse anche 90, e li ho messi lì, e quella abita sopra di me non me le volevo far mettere, perché lì c'è la mansarda, e se devo aprire una finestra, io ho bucato e me l'ho pensato di destra. Io ho bucato la mansarda. Dove c'è la mazzarda lì, ma mica sono entrato dentro, perché lei dice che lì si va a aprire una finestra, capito? E l'ho messa lì perché non avevo altri punti dove metterla, l'unico punto era quello. Ma quindi viene male, non mi fido io, capito? Non mi fido io, perché io quest'anno ho fatto quella raffica di vento, un'altra l'ho vista in terra. Se fosse stata più alta me l'avrebbe buttata a terra. E vabbè, mi ha fatto un tubo bello grosso, capito? Tu gli metti di tirato e la faccio una palla. Ma ero più anche 3 metri di spara, come tirato, non è più usare. Tirati ce li ho io, ne ho 4. E se è basso, è capito, sempre tirato. Basso, 4 metri alta. Sì, ma la televisione, si è messo che prima arrivo di radiali, allora c'è la televisione, c'è l'antenna. Allora ti spiego, dove adesso l'antenna della televisione, c'è una canna fumare a centro tetto, la mia antenna risulta più bassa, ok? E praticamente dove io ho messo l'antenna, nel baracchino, con quel palo lì, è praticamente al filo a quella dell'antenna TV. Capito. Così, ma se fosse stata un'antenna che tu hai attaccato l'antenna, non avessi disturbato, se avessi magari disturbato la stessa. Buonosso, ma si pure di no. Perché se io la metto lì al centro del tetto, con quella canna fumaria che quella canna fumaria non tiene, poi manco va a sogno, profane anche per Mr. Laviti. Se la metto lì risulta più alto, quei 4 metri diventano, per dire, adesso sono 4 metri, mettono lì diventano 5 metri, anche 6 metri. Infatti non mi computa quello, mica posso fare dei lavori su, a fare un piano magari, un gettito, un calcestruzzo, sulla nuda, perciò l'ho messa lì e via, non c'erano altri punti, proprio quello lì è, qua sono stato fortunato, credimi, fortunatissimo, fortunato. Abbiamo fatta, ah, metti il gocco, che mi sono avuto, abbiamo ok, ne va, credimi. sto resistendo. Vabbè, è meglio così, perché sono già le 11. Perché prima mi coricavo molto presto. Ma... tipo le 10, così. Ora vedo che sono le 11 e rotti. Cioè, domani mattina non mi alzi presto, come tutte le mattine alle 6. Luca! Ma ci sentiamo domani, se Dio vuole, ok? Aspetta, Luca, scusa Fabri, buonasera. Luca, non è un controllo di radio? È un bel forte, fra. Vabbè, ha migliorato rispetto agli altri giorni. Però è un po' barattolo. Barattolo? Aspetta. Non posso modificare i toni, vabbè, di fare una modifica. Però va bene, ti spinta, vero? Sì, sì, qui è sempre quella... sempre la solita radio. Sì, sì, però gli ho cambiato il microfono. Come di più 4. Ma si sente? È lì allora, fra. Ma gli hai messo il controllo elettro? No, ancora no. Ecco perché. Metti il cottone, vedrai che poi ti cambia i toni. Però cambia, fa fila, ti cottone in fondo, poi fai il copri la capsula, poi davanti se deve rimanere libera, gli fa un bel coso dietro la capsula. E vedrai che cambia. Comunque già spingiamo mai di più. Non so come ti ascolta Fabrizio. Ah, io ti ascolto bene, però diciamo si ascolta, sì, non so che cosa stia usando, però non è che sia perfetta, capito, ancora se potessi migliorarla. È forte, però non è molto bella. Vabbè, dovevo entrare nel menu e regolarlo. Questo è digitale. Va bene. Guarda se l'alzo appena si è tenuto a fischiare. Prova. Guarda, Lu. Prova, fra. 1, 2, 3 che l'ho alzato appena. Ora. Ma già è forte, cazzo, ma è forte. Solo che rimane un po' malato. Lo so, barattolo. Nanna. Se sei entrato un attimo nel menu. Va bene, al limite faccio che provo un altro momento. Prova domani mattina, fra. Metti il cottone e poi facciamo le cose domani sera, dai. Non c'è problema. Lì se fai quella volovi, ma la capsula originale. Allora, ce l'ho appena tolto dalla scatola. Gli ho fatto le connessioni e sono staccato dentro. No, non va bene. Sì, è questione di marche, se... lo lasci così, li fai con l'angolo del cottone e già va bene. Sono sicuro che cambia. Poi se vedi che non va bene, cerca di adattarne qualche capsula e vai tranquillo che poi va alla grande. E perché spinta ce n'è un bel, ma è barattolo. Scappa. Vabbè, no, prima di... vabbè, il cottone glielo metto. Poi entro dentro il menu e gli abbasso tutto. Oh, guarda, ma Buddha, io mi stavo già abbioccando. Ci sentiamo domani. Ciao Franco, buonanotte. Ciao Fabrizio, tutta domani se coincide. Ciao. Ah, sì, scusa Fabri. Ciao Fabri, buonanotte. Salutoni, ci sentiamo presto. Ciao Lu, grazie per il momento. Ci sentiamo più tardi. Stanotte mi dedico a questo. Ciao. Più tardi, domani. Ciao. Vabbè, è la sottointesa, no, è io che devo fare delle prove. Sì, ciao. Mi sei trattenuto, ma non fa, stavo già commentando da prima e mi sono trattenuto con Fabrizio un po'. Ma buona domani, ciao Fabrizio, riprendi. Ciao, fra, sentiamo, perché io lo faccio in direttiva, una volta che ho fatto. Comunque, se questo... Luca, si mette di quell'effetto malato da tutto bene, perché forse come potenza, però c'è ancora il tempo lì. Va bene, ci sentiamo le prese, ciao Luca, ci sentiamo. Ciao Fabri, buonanotte e buona giornata per domani, ci sentiamo alle prossime, bye. Ciao, ci sentiamo. Ciao.